Thanks for listening to Family Radio. To God be the glory. Chris aveva voglia di stare solo, da tutti, anche dalla sua radio rimasta spenta per giorni e giorni, quasi dimenticata. Un mix di flashback tra i mesi in Iraq da caporale dell'86esimo reggimento trasmissioni e di pensieri per l'impossibilità di assicurare a moglie e figli un ritmo di vita normale, dopo un'esperienza assolutamente anormale, lo aveva spinto a chiudere la porta al mondo. Persino stare con se stesso gli sembrava un'esperienza claustrofobica. Pensava che in quelle situazioni chi non ha mai visto la guerra, pardon, una missione internazionale con i suoi occhi, si aggrappa alla fede. Per lui in realtà si trattava di un conto chiuso da tempo, qualche giorno dopo la cresima, non per accadimenti spiacevoli, solo per una razionale constatazione delle ingiustizie del contesto che lo circondava. Ottimi padri di famiglia portati via in pochi mesi da mali incurabili, disonesti cronici più longevi di un Tiglio secolare, e amici di sempre vittime di sventure inenarrabili, immeritate per il bene che avevano offerto a tutti gli altri. No, uno lucido come lui, per quanto fatalista, faceva fatica a credere. L'ultimo mattone del suo muro di perplessità l'aveva messo a Baghdad, vedendo troppi commilitoni tornare a casa avvolti dalla Stars and Stripes. E poi sapeva bene che sulla fede, nella sua madrepatria, troppi ci marciavano allegramente. Le persone, specie in difficoltà, sono vulnerabili, e fare breccia nella loro sfera è più semplice di quel che sembri. Negli Stati Uniti un ottimo mezzo era rappresentato dalle stazioni religiose in onde corte. Ne aveva sentito parlare, ma viste le sue idee in merito non era mai andato oltre. Peraltro, per un trasmettitore da campo come lui, ovvero una persona che aveva vissuto professionalmente la radio, tutte quelle emittenti erano figlie di un escamotage inaccettabile. Le regole della FCC, la Federal Communication Commission, vietano la trasmissione in onde corte sul suolo statunitense. Tuttavia, fatta la legge, trovato l'inganno. Questi pastori erziani ufficialmente nascevano per servire con i loro programmi Caraibi e Sud America. Probabilmente anche ai funzionari federali era chiaro che le loro antenne direttive, però, avevano anche un'irradiazione residuale, opposta rispetto a quella dichiarata sui documenti, che sarebbe finita dritta dritta nella US mainland. Bandscan, seconda puntata. Non un programma sulle onde corte, ma nelle onde corte. Quest'oggi seguiremo il nostro Chris attraverso i venditori di fede microfonica. Tenetevi, sarà un viaggio intenso quanto la volta scorsa. Calate le tenebre, al momento della miglior propagazione, Chris inforcò le cuffie. Il suo dito indice cominciò a spostare lentamente la sintonia sul ricevitore, un ICOM R75. I 4755 kHz erano una frequenza molto bassa, destinata a paesi tropicali, e lui ci trovò un segnale in una lingua molto nota. WWCR stava conducendo una trasmissione test. Da Nashville, nel Tennessee, non arrivava solo il Jack Daniels, ma anche il messaggio cristiano evangelista, che però non disdegnava l'inserimento nel suo palinsesto anche di un mix tra politica e intrattenimento. Una bestia decisamente rara, pensò il caporale. Well as your location and some details about your receiver and antenna. Rara, ma certo non in via d'estinzione. Sì, perché mentre tutte le altre stazioni del mondo chiudevano, quelle religiose proliferavano. Salendo nello spettro, Chris raggiunse i 5080 kHz e si imbatté in una nuova creatura, appunto, WTWW. Il CAL della stazione era la contrazione di We Transmit Worldwide e il luogo in cui erano piantate le antenne era sempre il Tennessee, stavolta però nella città di Lebanon. Usata per la ritrasmissione dei programmi del network Scriptures for America, la stazione appariva essere proprietà di George McClintock, già proprietario di WWCR. Erano pochi i pastori arziani, concluse Chris. Pochi, ma molto scaltri. I don't know how you can make the distinction. Matthew, the 23rd chapter. Notice what he's doing here. Matthew 23, starting with verse 13. But rule you scribes and Pharisees, hypocrites. Because you shut off the kingdom of heaven from them, for you do not enter in yourselves, nor do you allow those who are entering to go in. Verse 14. Woe to you scribes and Pharisees, hypocrites, because you devour widows' houses, even while for a pretense you make long prayers, therefore you shall receive greater condemnation. Verse 15. Woe to you scribes and Pharisees, hypocrites. Verse 16. Woe to you blind guides, etc. Did you think that Jesus had a tolerance for the philosophy of the Pharisees? Well, you know, Jesus, they have their right to their belief too, you know. You know, Brother Jesus, we shouldn't judge. Isn't that what we would have told from the church pulpits today to Jesus Christ? What was Jesus doing? He was being intolerant of another religion. It is that way today. Well, first of all, we need to make the identification of what religion we're talking about. I've read this before in other sermons. I shall read it again. This is from the Plot Against Christianity by Elizabeth Dilling. This is from, I'm reading from page 9. Rabbi Louis Finkelstein was chosen in 1937 by the World Chilas, the Jewish communities of the world, as one of the top 120 Jews who best represent a lamp of Judaism to the world. He has long headed the Jewish Theological Seminary of America with branches in New York and Los Angeles. In The Pharisees, his two-volume work, Rabbi Finkelstein writes, quote, Phariseeism became Talmudism. But the spirit of the ancient Pharisee survives unaltered. When the Jew studies the Talmud, he is actually repeating the arguments used in Palestinian academies from Palestine to Babylonia, from Babylonia to North Africa, etc., etc. In Rabbi Finkelstein's History of the Jews, he states, fortunatamente, pochi minuti dopo, il nostro si convinse che esistevano anche spiriti più illuminati, per quanto monotematici. Se ne convinse proprio quando capitò sui 5810 kHz di WCQ da Monticello, nel Maine. Il proprietario degli impianti, Alan Weiner, aveva una storia tutt'altro che convenzionale. Già protagonista del sottobosco pirata americano, trasmetteva sì programmi religiosi, ma alternandoli a musica e a molto altro, nella convinzione che il primo emendamento della Costituzione americana fosse superiore a qualsiasi altra legge venuta dopo. Una filosofia che, secondo lui, ben si sposava con le onde corte. Chris, quasi quasi, ne era convinto a sua volta. So just give us a reception report. WBCQ at WBCQ.com. And I don't know, I'm going to take a break, play a few tunes, and we'll be right back with you. Thank you. Sempre dal Maine arrivava l'ennesimo segnale che si insinuò nelle sue cuffie poco dopo. WHRA trasmetteva sui 5110 kHz verso Africa e Medio Oriente. Era una delle emittenti del gruppo Lessee Broadcasting. Al di là del fatto che i contenuti fossero di matrice cristiana, nessuna stravaganza era nota su stazione o proprietari. Chris tirò dritto, limitandosi a constatare come un segnale tanto solido volesse dire ottimi impianti e quindi fondi a disposizione. Jonathan's loyalty extended in two directions. On the one hand, he was David's sincere friend, having made a covenant of friendship with him upon their first meeting after David's victory over Goliath. On the other hand, he was still Saul's son, and filial duty called for the son's respectful allegiance to his father and to his father's best interests. It might be some encouragement to ourselves to realize that situations of this type, which demand a swift review of priorities among our commitments, are not new to the experience of mankind. The question now was, who held highest priority among Jonathan's commitments? Saul, his father, or David, his covenanted friend? We don't like to make such choices. We prefer that all our associations may be carried on without interfering with one another. But where conflict does arise, this forces us to make judgment calls and sometimes be placed in the position of being accused by one of siding with another. An aggrieved individual accusing another of an injustice will see any neutral third party attempt at peacemaking as unjust if the peacemaker does not first issue an immediate ultimatum to the opponent that justice be rendered. They want the friend to be their lawyer rather than a neutral arbitrator. The idea of friendship seems to be summarized. Nel meridione della East Coast, ad Okeechobee in Florida, si trovavano però gli impianti del colosso statunitense delle onde corte religiose, con i 6915 kHz tra le principali frequenze usate. I contenuti erano rigorosamente cristiani, e l'embrione di ciò che oggi era divenuta una vera e propria affiliazione di stazioni, tra le quali quella in onde corte, risaliva al 1973, quasi 40 anni prima. Chris in Iraq l'aveva imparato molto bene, altri l'avevano imparato a loro spese, purtroppo. C'è sempre da guardarsi da chi è sulla strada da molto prima di te. Almost 2,000 years ago, and after suffering for the sins of his people, he rose again from the dead. Don't we call that Easter? Since the word Easter is not found in the Bible, it would be more accurate to say Resurrection Sunday. Do believers rise from the dead somewhere in the future? Yes, in fact, his people can be certain that someday he will actually rise again, even from the grave that he has died in. When he comes again, they will rise up in the air to meet him, and he is descending from the clouds. Mr. Z, does that mean Jesus will come back blind? Actually, Joy, we don't know all of those details, but we do know that the Lord Jesus ascended in heaven, and this is what exactly 40 days after he was crucified in the cross in 33 AD. That was 1,000 miles. We will also come as we read in 1 Thessalonians 4. Can you read that reading? All right. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. We can also look at Psalm 18:10, which says, and he rode upon a cherub and did Tra i furbi, alcuni erano decisamente sopra la media. Questi avevano riflettuto a lungo sui confini amministrativi degli Stati Uniti, ragionando sul fatto che alcune entità stelle strisce si trovavano nel Pacifico, zone come l'isola di Guam, dove sorgono i tralicci di KTWR, dalle quali si sarebbero potute raggiungere, soggiacendo alle leggi americane sul broadcasting, realtà asiatiche molto diverse da quelle degli States, popolate da persone ancora più in difficoltà e, anche per le differenze culturali, ancora più sensibili alla predicazione herziana, specie se effettuata nella loro lingua, ad esempio in mandarino. 台湾歌手邓丽君以及清脆动人的嗓音，选法以及鲜艳的衣裙，风靡了文革后新开放的中国，成为大陆第一个纯粹来自民间的娱乐偶像。尽管许多赞美短歌在教会中也很流行，但现代的年轻人仍然热切期待一些更有共鸣的词曲。 许多信徒能轻易哼上上百首曾经感动自己的诗歌，让我们也纪念时下年轻信徒的需要，让他们能在成年人为主的敬拜聚会模式中找到融合投入的元素。 亲爱的听众朋友，让我们一起为这些需求带到我们神的面前。 亲爱的主耶稣，求你亲自动工在年轻人的心中，让他们从里面被主摸着，而不是外面来的激情。也求主使用每一首的诗歌，让无论老年人、青年人都一起有一首感恩的歌向你献上。祷告奉耶稣基督的名，阿门。 Per Chris iniziava a essere davvero troppo. Si disse che un'ultima esplorazione dello spettro sarebbe stata sufficiente per quella notte. E dire che a lui sembrava ossessivo il rock trasmesso da AFRTS, You'll Rave About the Wave, a Baghdad. Povero illuso. Arrivò così sui 9385 kHz, dove si imbatté in WWRB. L'acronimo stavolta stava per Worldwide Religious Broadcasting e i padroni del vapore, pardon, dell'etere, erano i cristiani della Airline Transport Communications Incorporated, una stazione come altre, ma con una certezza. Se esisteva e aveva 4 trasmettitori e 6 sistemi d'antenna, qualcuno l'ascoltava. Anzi, molti più di qualcuno. Always grateful for you when you speak on the call. The phone number to call is 1-843-538-6689. A brother writes a little note to me. He says, "Dear Brother Smith, in the past you have been compared to King David in some of the sins he fell into." And that's true. I fell into the same type of sin. But let's look at some of the promises that God made to David. Compare them, brother, to your life. In 2 Samuel 7 and 8, God speaks, "Now therefore so shalt thou say unto my servant David," talking to Samuel, "Thus saith the Lord of hosts, I took thee from the sheepfold." Brother Stair, you were taken out of all the religious denominations and following your sheep. You know, the athletes, the Philadelphia church, many ministries, and many others. You were taken out of them to be ruler over my people, over Israel, the end times church. To be a ruler over God's people, brother, the end times church. In 2 Samuel 7 and 9, "And I was with thee whithersoever thou wentest." Brother, there all your life the Lord has been with you, in Russia, China, in Cuba, in California, Alabama, Boston, South Carolina, and so forth. and has cut off all thine enemies out of thy sight. Thus says, everyone that has come against you is no longer hurtful. Isn't that amazing? And has made thee a great name. Your name is heard throughout all the earth, like unto the name of the great men that are in. Esausto, come alla fine di ogni viaggio in mondi sconosciuti, Chris tornò a letto, accanto a sua moglie Natasha, con una convinzione. Era meglio riaprire le porte al mondo. Buonanotte, soldato. Domani è un nuovo giorno.